Io ti domando cosa devo fare, io ti domando cosa vorrai, e tu sei triste quando sono allegro, voglio provare se alle cose che ti porterò sorriderai, e se poi ti regalo un fiore, non lo guardi, se ti regalo un fiore. Tu mi rispondi sempre di no, non puoi baciarmi se ti senti triste, vorresti avere da me le cose che ormai non ho da darti più. E se poi ti regalo un fiore, non lo guardi, se ti regalo un fiore, vai via. E se poi ti regalo il sole, se ti regalo il sole, vai via. Se ti regalo.